24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:21 minuti, eccoci qui cari ascoltatori in diretta fino alle 9. 24 mattino e radio24.it è la nostra mail, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Parleremo di politica nel nostro sondaggio alle 8:30. Vi chiediamo la trattativa. Bossi dice: tratto io confini. Secondo voi si eviterà così la crisi di governo? Questo vi chiediamo. Votate su radio24.it, bianco o nero ci trovate nell'home page, un po' in basso a destra. Alle 8:30 approfondiremo con ospiti, ma prima di tutto, come di consueto, i giornali in edicola. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In Primo Piano. A parte il Sole 24 Ore che apre su il G20 a Seul, molto atteso, la battaglia di Seul sulle valute, questo è il titolo di apertura del quotidiano economico, le altre scelte sono tutte declinate proprio sulla politica e la notizia è che ieri il governo è stato battuto in aula 3 volte, primi colpi al governo in aula per il Corriere. FLI vota col PD, governo 3 volte, KO per Repubblica, il governo battuto 3 volte per La Stampa. Poi c'è chi, come il giornale, Fini vota con la sinistra a favore dei clandestini, perché si votava il trattato Italia-Libia, mentre l'Unità a fondo, questo è il titolo. Questi alcuni dei titoli di apertura, ne vedremo altri per la precisione, per esempio il Fatto che fa un'accusa molto forte, 48 chiamate ad Arcore, Perla, Corriere della Droga, vedremo di che cosa si tratta. Ma io come al solito vorrei partire da un paio di segnalazioni interessanti trovate sulle prime pagine dei giornali. La prima riguarda la vicenda di Gabriele Sandri, ve lo ricordate? Era l'11 novembre, dunque domani sono 3 anni, del 2007, tifoso che mentre andava a vedere la partita della Lazio a Milano fu ucciso da un colpo di pistola sparato dal poliziotto Luigi Spaccarotella in un autogrill. Ucciso all'autogrill, niente targa per l'ultra. Domani era tutto previsto, ne parlano sia La Stampa a pagina 20 sia Il Messaggero a pagina 12 con un'intera pagina. Era prevista domani la commemorazione di Gabriele Sandri con anche una targa da apporre sul luogo, sull'autogrill Badia Alpino, vicino all'uscita di Arezzo. Una targa che recitava così: nel ricordo di Gabriele Sandri, cittadino italiano, mai più 11 novembre. Tutto pronto, alla fine è arrivato il no da parte della società Autostrade per l'Italia, perché la targa creerebbe un precedente da evitare. Il Messaggero la mette anche così: la società dice niente altarini. Ovviamente c'è la rabbia dei genitori di Gabriele Sandri, per esempio sulla Stampa. Il padre di Gabriele dice: vogliono cancellare la verità, non si è trattato di un incidente stradale, eppure la motivazione del no alla targa da parte di Autostrade per l'Italia è stata proprio questa. Mi hanno spiegato che non si possono ricordare tutti i morti per incidenti sul tratto autostradale. Con la nostra iniziativa avremmo creato un precedente. C'è anche il sindaco Alemanno che si è arrabbiato, ha scritto una lettera al presidente di Autostrade per l'Italia dicendo: ci ripensi, visto che Gabriele non è stato una vittima della strada ma di un colpo di pistola, un lutto che per Roma e per tutti gli sportivi resta una ferita ancora aperta. Certo, questa targa negata ha creato e sta creando un caso. Il no è di Autostrade per l'Italia, nonostante per esempio ci fosse il parere positivo dell'ANAS o anche di diverse istituzioni come il Comune di Roma e la Regione Lazio. Niente targa per Gabriele Sandri. La seconda segnalazione che vi do sui giornali, la trovate ovunque, non è neanche escluso che domani ne parleremo. C'è uno spot televisivo molto particolare, perché è stato tra l'altro censurato in mezzo mondo, per ora gira nella rete, è stato lanciato dai radicali, perché questo spot pubblicizza l'eutanasia. In Italia lo spot pro eutanasia, il partito della vita si ribella, così la vende il giornale, mentre Repubblica in TV uno spot shock sull'eutanasia e così Libero, video shock dei radicali, la dolce morte va in TV. Tutto questo dà spunto ad Avvenire con Francesco Ognibene di farne l'editoriale di prima pagina: pubblicità mortale. perché tra l'altro ci sono tre televisioni locali, quelle dell'editore Parenzo, Sandro Parenzo, una è Tele Lombardia, Antenna 3, l'altra la dimentico, che hanno deciso lo manderemo in onda. E allora Avvenire scrive: l'eutanasia in Italia è illegale? E allora, visto che in Parlamento quasi nessuno la vuole ammettere per legge, si prova a blandire l'opinione pubblica mostrandone il volto libertario e pietoso attraverso uno spot televisivo nel quale un malato terminale spiega pacatamente di voler scegliere come e quando farla finita. I radicali tentano una nuova sortita per via mediatica e scavalcano la rappresentanza politica. Va ricordato che il codice penale sanziona con chiarezza l'omicidio del consenziente. Permettere che si pubblicizzi un reato attraverso i mezzi di comunicazione a noi pare inammissibile, scrive Francesco Ognibene. Ed è lecito attendersi che l'autorità garante delle comunicazioni faccia il proprio dovere senza esitazioni, fermando questa inutile provocazione. Sempre ammesso che non ci pensino prima l'editore o il direttore di Tele Lombardia, l'emittente commerciale milanese che si è incautamente presentata, anzi prestata, all'operazione. Associare il proprio nome a questo macabro gioco non serve ad accreditarsi se non presso i radicali e i loro sodali. Poca roba a conti fatti, anche per chi dovesse mirare solo all'audience. Pubblicità mortale è il titolo dell'editoriale su Avvenire per questo spot shock sull'eutanasia che forse vedremo in TV presto, chissà. Pubblicità e meteo e rientriamo. In primo piano. La politica si interroga sulla trattativa tra Bossi e Fini, che domani si vedranno, ma anche sul fatto che, come scrivono i vari giornali, sono stati i primi colpi al governo, perché sulla revisione del trattato con la Libia la maggioranza di centrodestra è andata sotto per tre volte alla Camera e i finiani hanno votato contro, hanno votato con l'opposizione. Allora ci si interroga su questo, è anche il tema del nostro sondaggio: secondo voi funzionerà questa mediazione? Bossi riuscirà a evitare, trattando con Fini, la crisi di governo? Questo è il tema del nostro sondaggio che approfondiremo alle 8.30. Per La Stampa, la mediazione di Bossi destinata al fallimento. Pagina 4, Amedeo La Mattina, con i quattro finiani pronti a ritirarsi dal governo entro la settimana. I retroscena sono tutti questi. Su il Corriere della Sera, il Cavaliere: non farò passi indietro. Perché questo è uno dei temi in discussione anche per Repubblica, nel retroscena di Francesco Bei. Questo è scritto: se domani Bossi si presentasse da Fini con questa opzione in tasca, e cioè un nuovo governo ma non con Berlusconi, allora il presidente della Camera cambierebbe atteggiamento, si disporrebbe all'ascolto. Ed è proprio questo l'incubo del Cavaliere, secondo Francesco Bei di Repubblica, tanto che Berlusconi sarebbe già pronto a non andare, a non partire per la Corea del Sud per il G20, mandando Tremonti pur di restare sul pezzo. In realtà, per esempio, sul Foglio la si vede in modo diverso. Sul Foglio, in prima pagina: nessuno chiede al Cavaliere un passo indietro, ma a corte già se ne parla. Secondo il Foglio, a quanto risulta al Foglio, la Lega ha confermato un patto granitico con Berlusconi. E dunque le voci di una Lega interessata a coltivare scenari post-berlusconiani vengono smentite dai vertici padani. Lo Stato Maggiore leghista smentisce, un po' ne ride. Sono auspici montezemoliani, dicono. Al Foglio viene descritto un equilibrio tutto diverso, con Bossi più vicino a Berlusconi di quanto non lo sia a Giulio Tremonti, l'unico candidato alternativo possibile alla presidenza del Consiglio, l'unico gradito al partito del Nord. Dunque per il Foglio in realtà non c'è questa opzione sul tavolo che vede invece Repubblica, cioè quella che Bossi domani si presenti a Fini dicendo: ok, facciamo un nuovo governo ma mettiamo un altro, non più Berlusconi, al quale chiediamo un passo indietro. Questo Berlusconi secondo molti lo teme, su questo Berlusconi avrebbe avuto rassicurazioni dalla Lega che non sarà così questa offerta fatta a Fini. Staremo a vedere fino a domani, poi ne parleremo anche con un leghista, con un finiano, questo alle 8.30, cercheremo di capirci qualcosa di più. Francesco Verderami sul Corriere la chiama così: siamo al preavviso della crisi. Certo, questo voto tre volte sotto alla Camera è un qualcosa che anche fa dire a Ignazio La Russa, intervistato dal giornale da Anna Maria Greco a pagina 4, Chi dice la questione dei rifugiati, la questione del trattato sulla Libia? La sinistra? Beh, certo, è coerente la sinistra. Ciò che non era prevedibile è che anche gli ex DAN, finora d'accordo sulla politica dei respingimenti, si facessero difendere da D'Alema e rappresentare da Della Vedova. Questo sì è davvero anomalo. Della Vedova, Finiano, sarà nostro ospite alle 8.30. E quindi la Russa dice: ma come, hanno votato, incredibile, i finiani si fanno difendere da D'Alema, hanno votato come D'Alema. E infatti sia Libero che Il Giornale titolano così: Libero, Fini ci regala i clandestini, maggioranza sotto tre volte sugli accordi Italia-Libia, e Il Giornale: Fini vota con la sinistra a favore dei clandestini. Mentre sul Sole 24 Ore, intervistato da Lina Palmerini, Giampaolo Gobbo, che è il sindaco di Treviso ma è anche il coordinatore della Lega in Veneto, dice esplicito: se non si vota qui c'è la rivolta, se si parla di governo tecnico c'è la rivolta, qui si vuole la chiarezza del voto, già c'è molta amarezza per come stanno andando le cose a Roma, la gente si chiede come mai dopo il centrodestra, dopo un po' il centrodestra non funziona, era successo anche nel 2001, succede anche adesso. Qui c'è l'aspettativa del federalismo altissima e proprio ora che ci siamo si sfascia tutto. Ecco, l'umore è di chi non vede realizzate le proprie esigenze, vede che invece la Carinzia o la Svizzera, due passi da qui, offrono alle imprese quello che lo Stato italiano non è in grado di offrire, un terzo della tassazione italiana e vantaggi burocratici. Certo, la domanda è: che cosa si fa in quel di Roma? Questo Giampaolo Gobbo, coordinatore della Lega in Veneto, che dice: se non si vota qui c'è la rivolta. La politica, insomma, si interroga tutto su questa situazione. Libero fa il nome esplicito di Mario Draghi a pagina 13, sarebbe la carta vincente su cui puntano i finiani. I moderati di Futuro e Libertà, per la verità, vogliono bloccare il voto anticipato e puntano tutto sul governatore di Banca Italia. L'ipotesi, secondo Libero, non dispiace anche ad alcuni ambienti americani vicini all'Italia, ma Mario Draghi, fa sapere Lodovico Festa, si muoverà solo se sarà completamente coperto in questa opzione. E in attesa di capire che ci sarà in questo incontro domani, Fini, Bossi ha detto: vedo uno spiraglietto. Ieri aveva detto: vedo uno spiraglio. Stiamo a vedere se si terrà aperto. Intanto ciò che preoccupa, e sono le cose più importanti, sono come sempre i conti pubblici. E Dino Pesole ne parla anche oggi sul Sole 24 Ore a pagina 4. Tremonti è stato esplicito sulla legge di stabilità. Le richieste sono 7 miliardi, per ora le risorse sono per 5 miliardi, ballano 2 miliardi dunque. Meno tagli per regioni e comuni, questo però è una buona notizia per gli enti locali. La novità dell'ultima ora è proprio questa: si lavora alla riduzione dei tagli disposti dalla manovra di luglio nei confronti di regioni e comuni, un meccanismo che passa attraverso un allentamento dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, così da liberare risorse e offrendo una risposta al diffuso malessere dei sindaci, che tra l'altro oggi si troveranno a Padova in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'ANCI. Ricordo anche che alle 8.20 avremo nell'intervista il sindaco di Padova, Flavio Zanonato, oggi nostro ospite. Sono in campo risorse per 7 miliardi, fa sapere Dino Pesole, 5 dei quali già individuate per i profili di copertura, dunque 5 su 7. Si parte da 1 miliardo per l'università, l'esatta ripartizione non è stata ancora definita, poi per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, in particolare la cassa integrazione in deroga, sono in arrivo per il prossimo anno 1,5 miliardi, mentre il finanziamento delle missioni militari internazionali sarà assicurato da 800 milioni di stanziamento aggiuntivo. Però certo, la lista delle richieste è lunga e la coperta è corta. Dunque 5 miliardi trovati, ne servono però 7. Questo è per quel che riguarda la politica. Io avevo anticipato il titolo di apertura del Fatto Quotidiano perché oggi si rianima un po' tutta la vicenda escort e quant'altro. Il Fatto Quotidiano spara in prima pagina una notizia con poi l'articolo dentro di Marco Lillo, che è questo: Perla, Corriere della Droga, 48 chiamate ad Arcore. Perla Genovesi è l'ex assistente del senatore Pianetta e Marco Lillo dice: altro che assistente di un oscuro senatore del PDL. Perla Genovesi, che è stata arrestata in un'inchiesta su un traffico di droga, non era una sfigata assistente, ha chiamato, e questo si legge dai tabulati che il Fatto Quotidiano ha potuto consultare, 48 volte 48 contatti con il telefono di Arcore, intestato alla Idra Immobiliare, cioè il telefono della villa di Berlusconi, ad Arcore, Villa San Martino. E questo a dimostrazione, dice Marco Lillo, della permeabilità dei vertici del PDL da parte di certi personaggi. Quando sono stati visti i 48 contatti con Arcore, gli investigatori hanno pensato inizialmente al Cavaliere. In realtà si è scoperto che quando chiamava per la Genovesi quel numero, la ragazza cercava non Silvio ma Sandro. Il 16 aprile 2005 al centralinista che risponde, secondo i carabinieri, Perla chiede del dottor Giuseppe Villa, che però non c'è, e chiede di tale Bondi. Come tale Bondi? Ma non c'è neanche quest'ultimo. Effettivamente Marco Lillo dice il telefono poi di Perla Genovesi viene contattato anche varie volte, ci sono varie telefonate in entrata e in uscita, è un po' il misterioso interlocutore. Fin quando non saranno rese pubbliche le trascrizioni delle conversazioni, dice Marco Lillo, si possono fare solo ragionamenti basati su altre telefonate. E a leggere i tabulati, probabilmente questo Sandro era proprio Sandro Bondi, nominato nel 2005 coordinatore del partito Forza Italia, o qualche altro personaggio dell'entourage del Cavaliere. Questo dice il Fatto. Secondo gli investigatori, tantissime telefonate, si legge più avanti, sono proprio riferibili alle utenze di Sandro Bondi. Nei tabulati risultano 37 contatti tra Bondi e Perla Genovesi tra il 19 settembre 2003 e il 2 ottobre del 2003, dunque in una quindicina di giorni. Poi l'apparecchio telefonico di Bondi cambia SIM, comincia a usarne una intestata a Forza Italia e Perla Genovesi intrattiene 570 contatti telefonici nel periodo monitorato, dunque in 4 anni. Dal settembre 2003 al settembre 2007 con questa scheda di Forza Italia, probabilmente in uso a Bondi. Nello stesso periodo ci sono un centinaio di contatti, fa sapere sempre il Fatto, con utenze riferibili all'attuale ministro del PDL Renato Brunetta, al quale poi Perla Genovesi presenterà Nadia Macri. Così si finisce l'articolo. Nadia Macri è quella che ha detto sono stata a pagamento, anche ho avuto rapporti sessuali con Berlusconi, sono stata da Berlusconi. Questo il Fatto Quotidiano, ma c'è anche Ruby, c'è Lele Mora che ritorna sui giornali dopo il traffico. In primo piano. Maroni e il caso Ruby. Il premier parlò di Mubarak. Pagina 15 del Corriere della Sera. Maroni ieri ha parlato in Parlamento della famosa telefonate per la vicenda dell'arresto della minorenne Ruby e ha detto in un paio di telefonate il presidente Berlusconi chiedeva informazioni e ha parlato di questa ragazza che gli sarebbe in precedenza stata segnalata come parente del presidente egiziano Mubarak. Ma poi insomma la vicenda ritorna in auge perché la Repubblica ci ritorna con Paolo Berizzi, Lele Mora ad Arcore, ecco i video. E i video sono del settimanale Oggi che pubblica alcuni video appunto in cui si vede la macchina di Lele Mora che porterebbe ragazze che non viene neanche fermata dai carabinieri all'ingresso di Villa San Martino, tanto che Repubblica si dice ecco qual è la sicurezza delle residenze della presidenza del Consiglio. E poi c'è un lungo elenco di persone della scuderia Lele Mora in questo articolo a pagina 11 che sarebbero andate a cene da Berlusconi, dalle famose Emanuele Arcuri, Aida Jespica, Fina Belen, Barbara Fagioli, Maristel Polanco, Francesca Lodo, Barbara Guerra, Sara Tommasi, Alessia Fabiani, Letizia Filippi, Francesca Cipriani, Siria De Fazio, Eleonora Gaggioli, le gemelline dell'isola Eleonora Emma De Vivo, le altre gemelle Emanuele e Marianna Ferrara, ex meteorine, Giada De Miceli, la russa Raissa Skorkina, biglionerina 2005. Che vuol dire biglionerina? Ah, sarà del biglionaire, cioè, insomma avrà vinto qualche concorso al biglionaire. Quello di Briatore. Ecco, queste qua. Torna, insomma, queste notizie sui giornali. Lele Mora d'Arcore, ecco i video e i dubbi del Copasir, pochi controlli, cioè il Comitato per la Sicurezza della Repubblica sulle residenze del Presidente del Consiglio. Ho trovato molto ancora sulla questione Veneto, governo in campo sul Veneto, ripeto ne parleremo alle 8.20, sarà ospite il sindaco di Padova Flavio Zanonato che ha incontrato ieri Berlusconi, per la verità è stato anche molto critico, cercheremo di capire perché su questo incontro. Io voglio segnalare tra i tanti articoli sul Veneto, in prima pagina del Riformista, C'è un articolo che, un po' come ieri la maca di Michele Serra, farà discutere Peppino Caldarola, che sul Riformista: cari veneti, io non dico arrangiatevi, ma ora anche a voi serve l'Italia. A un meridionale come me verrebbe voglia di dire arrangiatevi. Quando il vulcano mandava a valle la sua lava distruggendo case e raccolti, non eravate voi a scrivere sui muri Forza Etna? O a incitare il Vesuvio? Lo ha fatto anche Guido Bertolaso. Non siete voi a chiedere di abbandonare il Mezzogiorno e l'Italia in nome della purezza etnica e della vostra superiorità? Non è il vostro governatore leghista Zaia a dire che è una vergogna spendere 250 milioni per quei quattro sassi di Pompei? Sono questi pensieri stupidi e vendicativi, quelli arrangiatevi, che mi sono venuti in mente ieri quando ho ascoltato Enrico Mentana, che col Corriere invitava la sottoscrizione nazionale per un primo aiuto alla gente rovinata dalla furia dell'acqua. Volevamo bene ai fratelli veneti, che come i nostri lontani parenti della Sicilia, Calabria e Puglia affollavano i bastimenti che portavano in America o più lontano quelli che non potevano più vivere in questo paese. Ma ogni anno dalle vostre parti si celebrano riti celtici con una bandiera diversa dalla nostra, e non fosse per quella signora di Venezia che ha esposto fino all'anno scorso il tricolore, voi altri sembravate indifferenti o partecipi. In queste ore vi siete meridionalizzati. Anche voi chiedete allo Stato di essere solidale e virtuoso. Anche voi fate appello agli altri, agli italiani, per uno sforzo che vi sollevi dalla tragedia. Anche voi avete visto la scena di governanti che scendono dall'aereo, fanno un giro tra le macerie, pranzano in prefettura, poi ripartono. Qualcuno di voi ha fischiato Umberto Bossi e Berlusconi, altri hanno applaudito Bossi, che ha detto adesso ci saranno gli skei per voi. Eppure quella terribile parola, arrangiatevi, mi muore in gola. Non la posso dire, non la so dire. Vorrei spiegarvi che siamo figli dello stesso paese che non sa difendere le pietre di Pompei, le vostre fabbriche e le vostre case, che quegli uomini politici che vi incitano a odiarci sono i nostri nemici e i vostri nemici. La vostra questione settentrionale assomiglia alla nostra questione meridionale. Siamo una nazione di popoli soli, che sta smarrendo anche la coscienza di essere una comunità costruita con fatica e sacrifici. Non ho cuore di dirvi arrangiatevi, non ve lo dirà in queste ore Giorgio Napolitano. In fondo anche voi, che siete come noi, avete bisogno dell'Italia. E Peppino Caldarola, nel titolo, nell'articolo, la tentazione di dirgli arrangiatevi ai veneti. C'è ancora molto del successo straordinario di pubblico di Fazio e Saviano e Benigni. In realtà ci sono chi dice bravo Benigni, come il consigliere della RAI Verro in quota PDL, che dice bravo, certo è stato un errore farlo lavorare gratis. Se è anche poco credibile se per mezz'ora attacca solo Berlusconi. C'è il giornale che dice il genio Benigni ha copiato le battute da un sito, che il sito spinoza.it. Benigni le ha anche citate. Ringrazio i ragazzi di Spinoza, forse per mettersi tecnicamente al riparo da qualche maligna accusa. Libero addirittura attacca Benigni. Sì, è venuto gratis, ma ha offerto alla RAI una serata su Dante il 21-28 dicembre, proposta dal manager dell'artista Lucio Presta, per 1,5 milioni di euro. La RAI ha detto no. Mentre il Fatto Quotidiano si interroga a pagina 7, dopo lo straordinario successo di pubblico: è lui il Papa straniero? Il Papa straniero sarebbe Roberto Saviano. Sandra Murri si chiede, non è che Roberto Saviano sarà un'icona per la sinistra? Un potenziale leader per la sinistra? Su questa domanda vi lascio il GR. 24 mattino. L'intervista. Eccoci qua alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Il nostro ospite di oggi è il sindaco di Padova, Flavio Zanonato. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Nel Partito Democratico. Senta, intanto la situazione, voi avete fatto la stima dei danni in Veneto del governatore Zaia, 1 miliardo, per Padova e nel padovano? Allora, per Padova i danni si aggirano sui 20 milioni e sono stati danneggiati gli edifici, sono una quarantina di edifici, all'interno dell'alveo del Brenta, prevalentemente si tratta di abitazioni, e 3 impianti sportivi che sono all'interno dell'alveo del Brenta, si tratta di piscine, di campi da tennis, di cavane con barche per muoversi e spostarsi. Comunque 20 milioni, questa è la stima. La città, la provincia, certo, è messa molto peggio perché ha avuto danni molto grossi. A Padova non ha tracimato il Bacchiglione, mentre si è rotto l'argine a Roncaiette, con una situazione davvero molto difficile. Grossa allagamento e di danni. Senta sindaco, perché lei è stato critico nell'incontro ieri? È venuto il premier, è venuto Bossi, è venuto il governatore Zaia, ovviamente anche il governatore del Piemonte Cota, lei li ha anche incontrati, però ha parlato di teatrino, di parata di chiacchiere. Com'è andata? Perché? Perché questa è stata la nettissima impressione, non solo mia ma anche di rappresentanti importanti delle categorie economiche, per esempio Ascom e Confesercenti hanno espresso il mio identico giudizio. È stato un monologo, ha parlato solo Berlusconi, è arrivato, si è preso il microfono, ha parlato solo lui, la cosa è durata un quarto d'ora, due sindaci hanno potuto dire appena appena qualcosa, abbiamo sentito una montagna di banalità, i veti sono bravi, si danno da fare da soli e tutte queste cose che non vogliono dir niente, una lisciata di pelo, e gli impegni sui soldi non ci sono. Molti mi chiedono se sono pochi i 20 milioni stanziati dal governo, e sono indubbiamente pochi, ma mica li abbiamo visti. Solo a Padova ne servirebbero 20. Tutta l'emergenza è stata affrontata dai comuni senza nessunissimo aiuto da parte del governo. Ci siamo arrangiati e adesso le difficoltà sono enormi, perché dobbiamo, primo, affrontare ancora l'emergenza. Faccio un esempio: impianti di riscaldamento che devono essere ripristinati perché si sono danneggiati con l'acqua, impianti elettrici che hanno lo stesso identico problema, animali morti devono essere rimosse e poi distrutte le carcasse, e avanti di questo passo, tutte quelle cose immediate per far ritornare la gente nelle case. Cioè lei voleva qualcosa di più concreto, voleva sentire che cosa? Vi diamo sentire che la finanziaria stanzierà X per venirvi incontro, poi servono tutte le opere di ripristino, lì stima Zaia. Poi dico una cosa su Zaia, stima Zaia 1 miliardo di euro, lì non sono in grado di dire, ma mi pare ragionevole come dimensione, e poi bisognerà fare quelle opere che mancano, che ci hanno portato al disastro attuale, altrimenti avremmo ricostruito la situazione pre-alluvione. Che vuol dire, dico qualcosa, di nuovo a rischio. Che vuol dire, dico qualcosa su Zaia? Che... Sì. Dico che non si può, essendo... governatori di una regione, fare ogni volta tutte le parti in commedia, essere opposizione e essere al governo, essere operai e essere titolari di impresa, fare tutte le parti in commedia, è ora di il cosiddetto partito di lotta e di governo, è ora di finirla, perché ha proposto di trattenere l'IRPEF, una proposta assolutamente impraticabile, ma giusto per dire qualcosa che assomigliasse a una protesta. È arrivato Berlusconi perché non ha detto: guardi Presidente, ci tratterremo l'IRPEF. Ah, non gliel'ha detto, dice. Si è accontentato di generiche promesse, scodinzolato di fronte al Presidente e si è accontentato di generiche promesse. Senta, ma quando Zaia dice... O fa il governo o fa l'opposizione. Quando Zaia dice diamo i soldi a Pompei e non al Veneto, lei vede questa priorità oppure è un discorso... Insomma, guardi, la trovo una cosa volgare, perché non si può ogni volta rivendicare questo atteggiamento che dovrebbe parlare allo stomaco, alla pancia della gente, senza mai costruire un ragionamento. Trovo una cosa volgare. Pompei è un patrimonio anche nostro, bisognerà aiutare anche Pompei e lo sappiamo benissimo. L'importante è avere le idee chiare su quello che si fa qua. Invece c'è questo brontolio ogni volta leghista, non serve a niente e restiamo come prima. Per concludere, sindaco, oggi si apre a Padova un'assemblea importante dell'ANCI di tutti i comuni, consigli comunali. Vediamo se Zaia dice al presidente niente soldi a Pompei. Però le chiedo sulla legge di stabilità: è stato annunciato un minore rigore sul patto di stabilità in modo da dare più risorse, liberare più risorse agli enti locali. Questo almeno si legge anche oggi sul Sole 24 Ore. Questo almeno vi soddisfa un pochettino? C'è un po' più di ossigeno. Attenzione, allentare il patto di stabilità significa consentire ai comuni che hanno i soldi di spenderli, certo, per liberare ma li devono avere prima, questo oppure di indebitarsi un po' di più ma devono avere i soldi per pagare i rati dei mutui, quindi non è da sola la medicina, è una condizione, ma non è tutto, perché se mi danno la possibilità di spendere di più e io non ho i soldi per spendere, è come autorizzare le famiglie italiane a spendere di più, sì, ma se i soldi non li hanno, cosa spendono i comuni? La ringrazio, sindaco, per essere stato con noi. Ovviamente buona giornata. Flavio Zanonato, il sindaco di Padova del Partito Democratico. Buongiorno, io andrò a pubblicità e meteo. Torniamo a parlare di politica. Oggi parliamo di politica perché il Bossi ha detto tratto io confini e c'è questa trattativa in atto, domani si vedranno e vi chiediamo nella nostra domanda, nel nostro sondaggio, secondo voi questa trattativa può fermare, può evitare la crisi di governo? Che ne pensate? 800, votate su radio24.it oppure 800 24 0024 se volete intervenire in diretta. 24 mattino. Alle 8:33 minuti, eccoci qui con il nostro sondaggio. Parliamo di politica, della trattativa. Bossi che dice confini tratto io. Vi chiediamo, secondo voi questo riuscirà a evitare la crisi di governo? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Per la verità, i nostri ascoltatori, almeno al 79% per il momento, sono scettici, dicono di no. Ne parliamo con intanto due politici, il vice capogruppo di Future Libertà, Fignano, Benedetto Della Vedova, buongiorno onorevole, ben ritrovato. Buongiorno. Così come Matteo Salvini per la Lega, europarlamentare, buongiorno Salvini. Buongiorno da Bruxelles. Da Bruxelles, benissimo. In genere dicono dalla Padania, invece oggi da Bruxelles. Però io vorrei fare la prima domanda a Fabrizio D'Esposito, del Riformista, che segue sempre attentamente la politica. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, intanto, questo spiraglio, poi è diventato pare uno spiraglietto di Bossi, domani si vede confini, cosa sarebbe questo spiraglio spiraglietto? Come la vede? Ma diciamo che stavolta coincide il punto di vista generale del paese con il sondaggio che lei ha dato, i risultati con le previsioni degli addetti ai lavori. Io sono molto pessimista, ma per un motivo semplice: le ipotesi sul tappeto sono tante, si parla di un Berlusconi bis, si parla di un rimpasto, magari Berlusconi dovesse dire di no e andare avanti, anche se poi ieri c'è stato il voto, il segnale arrivato dai Fignani sui tre voti contro la maggioranza sulla questione dell'immigrazione. Teniamo presente che l'immigrazione fa parte dell'agenda politica, soprattutto che sta a cuore alla Lega. Ecco, la mia previsione è che l'incontro non vada male, però Fini porrà delle condizioni nette. Io credo che Fini punti a un governo senza il cavaliere. Ecco, questo è il punto sul quale ci si aggira un po' anche nei vari commenti che ho letto in rassegna stampa nel retroscena, cioè una delle ipotesi è, almeno lo dice Repubblica per esempio, se domani Bossi si presenta da Fini e dice ok, ci sarà un nuovo governo ma non più con Berlusconi che fa un passo indietro, allora Fini potrebbe accettare. Ecco, D'Esposito, prima di chiederlo ai nostri due rappresentanti dei Fignani e della Lega, come la vede questa ipotesi? Mi sembra un po' fantapolitica, fantascientifica. Io credo che arriveremo ancora di più allo scontro, all'ordalia finale, come dice qualcuno. Io credo che da qui a marzo c'è la prospettiva delle elezioni anticipate. Come riempire questo percorso poi fa parte della politica e dei motivi di divisione ulteriore che troveranno FLI con il resto della maggioranza senza nemmeno disdegnare l'UDC. Per quanto riguarda l'ipotesi di un governo bis del centrodestra, magari a guida diversa da Berlusconi, io credo che il cavaliere vada avanti. Non dimentichiamo che la fuoriuscita, se mai ci sarà, in tempi brevi dal berlusconismo non sarà una cosa facile, ecco. Tra l'altro, tempi, percorsi, ci sono anche alcune scadenze, per esempio il federalismo e la Lega, ma non solo, ci tiene moltissimo, la finanziaria, vogliamo mica andare entro la fine anno? Poi ci sono i guai personali del cavaliere, non dimentichiamo che c'è la sentenza, certo, sul legittimo impedimento. Allora, qui i temi sul tavolo sono diversi. Vorrei, onorevole Della Vedova, domani si vedono Bossi e Fini, ci può dare qualche notizia? C'è qualcosa in più di certo? Si vedono, è sicuro? Lei da Fini ha avuto qualche certezza? E che cosa vi aspettate voi che Bossi arrivi a dirvi? Ma allora, 30 secondi per dire che ieri secondo me il governo ha sbagliato. Non era in discussione la politica sull'immigrazione, non era nemmeno in discussione la politica sui respingimenti, che a noi va bene, che vogliamo continuare. si trattava semplicemente di chiedere alla Libia, con un pochino di energia, come un grande paese fa nei confronti della Libia, che gli immigrati che respingiamo, i clandestini che respingiamo, abbiano un trattamento civile e non incivile, e che se c'è qualche perseguitato religioso che arriva dal Sudan ci sia un ufficio dell'ONU che magari dice: questo se lo mandate lo ammazzano, tenetelo lì. Di questo si trattava, e secondo me Frattini ha fatto un grave errore di scarso coraggio, insomma, e noi abbiamo tenuto il punto su quello. Non c'entra nulla l'immigrazione, la politica di respingimento, punto, ma ci tenevo. No, io, domani, salvo sorpresa, ci sarà l'incontro. Io vorrei fare un passo indietro, però la proposta che Fini ha fatto non è la proposta di un governo senza Berlusconi presidente, è stata una proposta diversa. Noi diciamo il governo ha una grave difficoltà di immagine per tante vicende, anche non politiche, non le rivanghiamo qua adesso, sì. Ma è chiaro a tutti, chiunque prenda il caffè al bar o salga su una metropolitana o su un treno sa che il governo ha un problema di immagine, ce l'ha il Presidente del Consiglio. Due, il Paese ha una crisi feroce che secondo me Berlusconi ha sottovalutato nel suo intervento di giovedì scorso. La nostra proposta è: se andiamo avanti così andiamo a sbattere tutti quanti, facciamo un punto, creiamo un punto di cesura e offriamo a Berlusconi la possibilità di ripartire con un nuovo governo, sì. Berlusconi, con una nuova maggioranza, noi diciamo anche ampliata con l'UDC per esempio, poi discuteremo di federalismo e troviamo l'accordo anche su quello, ma con una maggioranza ampliata, un nuovo governo, un nuovo programma per il proseguio della legislatura che non sia l'elenco di 50 punti che non si faranno mai, ma magari di 5, perché altrimenti diventa un governicchio, sì. E noi abbiamo detto: al governicchio non ci stiamo, ritiriamo i ministri, poi daremo i nostri voti. Lo so, domani, però voglio dire, qui c'è anche Salvini, voi proponete questo, cioè Posso solo aggiungere una cosa, mi sembra di aver capito, parlando anche con altri esponenti leghisti e leggendo quello che ha detto Bossi, che la Lega abbia comunque, poi magari non si arriverà da nessuna parte, ma abbia comunque la nostra preoccupazione. Vediamo, cioè, chiediamolo. Di rilanciare l'attività del chiediamolo governo. A Salvini. Salvini, avete questa preoccupazione? E Bossi domani presumibilmente che dirà a Fini? Dirà, che ne so, che accettereste anche un nuovo governo ma senza Berlusconi, oppure Berlusconi è imprescindibile? Come dice oggi il Foglio, il patto Lega-Berlusconi è ferreo, granitico. Aspettiamo Umberto Bossi, la via è difficile e tortuosa, ci ha abituato ai miracoli, mai dire mai. Però prima di parlare di nuovo programma, nuovo governo, nuovo Presidente del Consiglio, un po' di rispetto per chi ha votato, non un secolo fa, ma due anni fa ci vorrebbe. A me non piacciono quelli che durante le partite, alla fine del primo tempo, vanno nello spogliatoio, cambiano maglia e poi pretendono di tornare in campo. E se cambi maglietta vai nell'altra squadra, non è che puoi cambiare squadra ogni 15 giorni. E la domanda di dove stavano questi finiani, secondo quali appunto Berlusconi riassume i mali del mondo negli ultimi 15 anni, penso sia legittima da parte di tutti. Mi permetto di ricordare poi il numero degli SMS per dare una mano ai fratelli veneti, che è il 45501, e poi sull'immigrazione, arrampicata libera sugli specchi degli amici dell'ex centrodestra, oggi finiani, che colgono spunto per cambiare ogni avverbio, virgola, punto esclamativo, aggettivo, pur di far andare sotto il governo, sia sulla manovra finanziaria che sull'immigrazione, che sulla giustizia. Se è questo il modo di governare, di partecipare a una maggioranza, mi sembra un modo bizzarro. Il dubbio che il cambiamento dia fastidio a molti c'è. Certo, noi siamo preoccupati più che per la Lega, per il Nord e per il Paese, se il federalismo non arriva in porto. Ormai abbiamo fatto il 90% del lavoro, siamo alle questioni finali, è chiaro che se salta tutto bisogna ricominciare da capo, però il dubbio, non parlo di chi c'è in questo momento in collegamento, che però a qualcuno dia fastidio che si metta ordine, che ne so, nel campo delle false pensioni di invalidità, perché ne abbiamo beccati 40.000 l'anno scorso, o il dubbio che a qualcuno dia fastidio che in sanità non si possano più fare decine di miliardi di euro di debito come hanno fatto in Puglia, in Lazio, in Campania fino a oggi, il dubbio che la riforma della scuola e dell'università che questo dia fastidio dà fastidio, ma, dice allora si vuole cambiare. Insomma, no, però io non ho capito una cosa, vorrei, se Desposito mi aiuta. Allora, Fini dice, la riassumo molto così: nuovo governo Berlusconi, resettiamo, nuovo governo con l'UDC, però l'UDC è vista col fumo negli occhi dalla Lega, lo sappiamo. La Lega adesso anche coi finiani che hanno cambiato casacca dicono, beh, no, insomma, questi posso... finiani... No, cioè, è tutto un teatrino, mi sembra. Posso fare, volevo fare due domande. Vorrei innanzitutto accorciare la domanda di Salvini a Della Vedova. Cioè, no, dove erano i finali? Non negli ultimi 15 anni, nell'ultimo mese, perché è vero, io prendo atto di quello che dice l'onorevole Della Vedova, però diciamo il paese, l'osservatore, magari l'addetto ai lavori no perché è abituato ai tatticismi, però non dimentichiamo che i finali hanno votato la fiducia un mese fa, il 29 settembre, poco più di un mese fa. Sui famosi 5 punti. Cioè, in questo mese, a parte Rubi, io altri disastri non ne vedo. Mm. Poi a Salvini, la Lega è un partito vero, radicato sul territorio, che capta gli umori popolari, l'abbiamo visto anche sull'alluvione. Mi sembra, leggendo la Padania, ascoltando anche Radio Padania su internet, che Fini sia un bersaglio forte della base leghista. Ma sì, la base leghista non ne può più, diciamo la verità. La base leghista. La trattativa con Fini, come vista appunto dalla Lega e dai militanti leghisti, se sono d'accordo eventualmente su una pace con Fini. Allora vediamo se in un minuto prima risponda Salvini e poi dopo vada Della Vedova. Poi Salvini va spesso su Radio Padania. I militanti leghisti, dai Salvini, diciamo la verità, non ne possono più, la vedono come un teatrino vergognoso questo, no? Posso tradurla così o esagero? Ma guardi, se uno ha ascoltato il discorso di Fini domenica, come è capitato a me tornando dalla Valtellina verso Milano, passati due terzi del tempo ad attaccare la Lega, è un governo che fa troppo per il nord, spende troppi soldi per il nord, e Maroni non va bene, Bossi non va bene. E allora domani che gli dice Bossi? Ma guardi, Bossi, se fosse un politico come gli altri, avrebbe convenienza che saltasse tutto, perché secondo tutti i sondaggi la Lega prende una barca di voti. Siccome non ci interessa prendere una barca di voti domani mattina, ma ci piacerebbe cambiare il paese, Bossi cerca di fare il miracolo. Bossi cerca di mettere insieme quelli che purtroppo temo che anche personalmente Fini e Berlusconi non siano più accostabili, però Bossi prova a fare quello che, che certo, altri dovrebbero provare a fare. È una questione effettivamente anche personale, questo l'hanno detto tutti ormai, di due persone che anche come personalità non riescono più a stare uno a fianco all'altro, evidentemente. Le informazioni sul traffico, e poi chiederemo all'onorevole Della Vedova cosa è cambiato in questo mese, insomma, dalla fiducia a parte Rubi, o se Rubi è davvero la pietra che ha fatto scoppiare e cambiare idea. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, la percentuale degli scettici su questa trattativa è salita all'80%. Onorevole Della Vedova, ecco, Fabrizio Esposito le chiede, ma anche Salvini, riassumendo, cosa diavolo è cambiato dal giorno della fiduccia in questo mese? Perché, ecco, viste le premesse di Salvini, aggiungo io, che diavolo di dialogo ci potrà essere domani? La domanda fatta così è evidentemente tendenziosa, ma facciamo domande tendenziose anche. Se il regime, ma non lo dico a lei, se il registro è quello della propaganda, mi ci metto anch'io a fare la propaganda, così siamo tutti contenti. Insomma, nessuna arrampicata sugli specchi, caro Salvini. Poi, se tu sei disinteressato al destino dei rifugiati politici, mi spiace, io sono interessato e resto interessato secondo la Costituzione italiana, e solo di quello si trattava, non dell'immigrazione, non della lotta alla clandestinità. Poi se tu vuoi dire che era un'altra cosa, era un'altra cosa. Punto 2, su tutte le cose che lui ha elencato, sud, nord, spesa, sì, pensione, sì, di invalidità, dico solo una cosa, forse non l'hanno informato bene, su ultimo punto, la riforma sulla università meritocratica, migliorabile ma buona, è stata portata avanti da un senatore che è il vice capogruppo Valditara sì, che è stato relatore. Ci siamo imposti noi perché si trovassero i soldi per chiuderla subito alla Camera, quindi non ho capito di cosa. Vabbè, queste sono le repliche a Salvini, però ci dice cosa è cambiato in questo mese dal voto di fiducia, onorevole? Cambiato negli ultimi 14 anni, secondo me è cambiato tantissimo. Io sto con Berlusconi dal 2006. Dal 2005, sono andato con Berlusconi nel momento in cui nessuno se lo filava perché aveva appena perso le regionali. Dico che dal 2008 ad oggi c'è stato un peggioramento della prospettiva politica, dell'attività di governo, della gestione del partito, dei rapporti, eccetera. Cos'è cambiato nell'ultimo mese? Ci siamo ritrovati un mese fa, un elenco, poi apro la parentesi, federalismo, io che sono interessato a che il federalismo veda la luce, registro che solo un mese e mezzo fa la Lega voleva le elezioni subito, voleva votare a novembre e ora si tenta il federalismo, quindi anche loro hanno cambiato idea, chiusa la parentesi. Cosa è cambiato in questo mese? Appunto, non è cambiato nulla. Non è cambiato nulla, è un mese e mezzo ormai anche di più. Abbiamo votato la fiducia, dopodiché abbiamo ricominciato ad occuparci esclusivamente, non prioritariamente, esclusivamente di questioni giudiziarie legate alla giustizia. Per di più, parlando di una riforma che non si farà mai, purtroppo, separazione delle carriere, responsabilità civile, eccetera, e occupando tutta la discussione sui lodi vari. Quindi l'idea era, avete dato la fiducia sperando che qualcosa cambiasse, ma non è cambiato nulla. D'Esposito, questa è la... Più abbiamo sentito il discorso di Berlusconi di giovedì, in cui ha detto, ma che volete, va tutto bene. D'Esposito, ha capito, questo è la questione. Che Finiani dicono, non è cambiato proprio nulla, cioè questo è il problema. Diciamo che i Finiani si prendono molto tempo prima di votare contro. Io penso che... Ma certo, ma nessuno vuole... Quest'altra cosa, D'Esposito, cioè lei che sta in Parlamento, che insomma frequenta, che nessuno si vuole assumere la responsabilità di dire chiudiamo tutto, no? Perché... risultato di pareggio, ma tendente alla sconfitta di domani, per usare un linguaggio calcistico, stasera gioca anche il campionato. Venerdì, la domanda secca che vorrei fare all'onorevole Della Vedova è: quali sono le percentuali che Future Libertà ritirerà la delegazione di governo? Entro la settimana, tra l'altro, è previsto. Credo che sia venerdì. Sì, entro la settimana. Onorevole, procedete su questo. Ci faccia delle percentuali, dai, faccia il bookmaker una volta. Si sbilanci un po'. Della Vedova. Sono un ottimista per natura, per cui continuo a pensare che al 51% non la ritiriamo, perché Berlusconi dice meglio non tirare a campare, perché sennò si tirano le cuoia, rifacciamo tutto e ripartiamo alla grande. Ma lei è uno straordinario ottimista, ma Berlusconi l'ha già detto, ma perché dovrebbe fare un passo indietro? È stato votato dagli italiani. Ma che c'entra? Chi lo mette in discussione? Fare un passo indietro per farne due avanti? Se poi lui pensa che è giusto andare avanti così perché va tutto bene, magari ha ragione lui e quindi alla fine avrà vinto lui, andrà tutto benissimo, il governo sarà fantastico. Siccome io penso che ci sono delle difficoltà, è meglio affrontarle piuttosto che mettere la testa sotto la sabbia. Sentiamo che ne pensa Vito da Forlì, ci ha chiamato, viene eletto all'ascoltatore che dirà la sua per tutti. Vito, buongiorno. Bene, mi fa piacere. Il mio è solo un intervento molto semplice per fare una proposta. Si sta promuovendo lo storico incontro, il famoso trattato che leggeremo, il trattato 2010 che leggeremo nei libri di storia fra qualche anno. Ma siccome siamo coinvolti e sono coinvolti fino a prova contraria due signori che fanno parte delle istituzioni italiane, del governo, eccetera, perché questa trattativa non viene fatta in diretta? Sarebbe, cioè, la vuol vedere in TV? No? Perché in TV. No? È legittimo sapere che cosa il signor Bossi deve dire al signor Fini. Vabbè, ma la trattativa politica, insomma, adesso Vito, non esageriamo. È una trattativa politica, ma sono istituzioni. Si parla dell'Italia, si parla di un'Italia che. Mi sembra. Lei la vorrebbe vedere come un grande fratello della politica. Ma guardi, il fratello proprio non mi interessa. Ma guardi anche a me, proprio non me ne frega niente. È la prima cosa che mi è venuta in mente. Ho guardato qualche anno fa, poi ho rifiutato di guardare. Siamo d'accordo, è la prima cosa che mi è venuta in mente per dire una cosa che si vive così in diretta. Salvini, dia anche lei le percentuali, forza. Della Vedova dice al 51%, Berlusconi si rende conto che piuttosto che crollare tutto fa un passo indietro per farne due avanti. Guardi, io ho votato sul vostro sito al sondaggio, avrei votato boh, cioè se il governo va avanti non c'è il boh, allora ho votato sì perché voglio essere ottimista anche se la strada è in salita e ripeto, anche se la convenienza politica della politica dei voti porterebbe a dire a noi egoisticamente come Lega salti tutto, torniamo a votare che facciamo il botto dei voti. Ripeto, se siamo qua a parlare di questo e se siamo qua a parlare di federalismo è perché Bossi ha cambiato il paese, quindi magari riesce anche a riportare sulla retta via, del programma di governo Fini. Non lo so, onestamente non so dire. Ma una percentuale non ce la dice. Boh, però la risposta che darebbe il governo si evita la crisi, boh, direi che è l'emblema di questo stato, di questo momento della politica. Mi sembra di poter dire, forse d'accordo anche Fabrizio D'Esposito, che comunque saluto perché abbiamo finito il tempo. Grazie Fabrizio D'Esposito del Riformista e l'onorevole Della Vedova di Future Libertà e Salvini, eurodeputato della Lega. Ci fermiamo con Antonella Migliaccio in redazione, do la linea come sempre a Oscar Giannino, anche salutando il nostro alpino Peter Bescapè in regia. A domani 7:20.